quella moletta. Fatti. E tu non posso dire invece di stare la cosa a voi. Allora, che cosa diciamo? Oggi non è quello che siamo in voglio, guardo. Ah, di una moletta, Rosario, come ti taglia? Buona mangiata, dai, faccio tutti, in oggi. Allora, tu mi dici tutti a gusto, giù dopo il genere, qua. Non mi sono mai comportato così, ma mi avete portato a punto brutto. Natale, fregatene. No, oh, vabbè, ho mangiato, io parlo senza aprire la lingua, chi mi conosce, sono fatto così. Io non sono amareggiato, sono stufo, capito, che ci sia sempre la stessa minestra in questo canale 10. Quindi io ho degli amici che tra l'altro non sono neanche di qua, hanno la casa ad Alghero, dei radioattori che io sento nelle bande a Creffe, hanno la casa ad Alghero, uno ce l'ha a Villanova a Monteleone, e quindi la sera ci troviamo in banda laterale, capito? Perché loro sono molto, molto avanti della 27. Solo che di là dove abitano non c'è la possibilità di fare quel show, e quindi facciamo quel show così, 27 o sopra o sotto, dipende dove vogliono. Ma li vanno via, non è che stanno tutto l'anno qua, sono venuti così per fare 10 giorni di ferie. Sembra che sia io la pecora di questo casino che sta succedendo, perché giustamente Franco mette a preso a me e si fa due chiacchiere con me, anche perché li conosce, eccetera. E quindi insomma mi ha fatto io questo, non per altro. Quindi non è questione di polemica o questione di essere. A me da fastidio che ci siano questi discorsi, e capisco perfettamente la situazione, perché ribadisco che l'unico che sta prendendo male questa cosa è Luca, e questo mi dispiace veramente, capito? Perché Luca è stato messo in condizioni di parlare e di divertirsi come tutti, e sta prendendo questa cosa qua. E a me dispiace, non è che non mi dispiace. Il fatto tuo è un altro, perché io ripeto, tu vieni qua e ti faccio avere come comodo le antenne, in quali condizioni io modulo la sera per non disturbare nessuno. Sentirmi dire, certo che, perché l'ho sentito di nuovo anche stasera, è questione di maleducazione, è questione di mancanza di rispetto nei confronti degli altri, qui e là, dal 10 siete andati al 2, poi siete tornati al 10, addirittura volevate passare sui canali alti, cioè, io ascolto, non è che non ascolto, sono rimasto un po' così, ho toccato, ma che devo essere sempre io in mezzo alla valle, poi Gianni mi dice, io a te non ti sento, non ti sto cercando. A me io lo so che tu non mi senti, non mi stai cercando, ma il riferimento è sempre casuale, no? Ho fatto io il riferimento, io non penso di averlo fatto io. Di andare sul 2 l'ho proposto io per far allontanare Luca un po' da lì, ho detto proviamo magari, perché ripeto, noi esatto ci sentivamo tutti, il problema era solo Luca, ho detto proviamo a spostarci magari più in alto, che si allontana e poi riusciamo a fare anche lui quel SEO. E tant'è vero, mi ha detto che un po' l'ha migliorato, se no poi siamo tornati al 10 perché abbiamo visto che non stavamo più diciamo facendo quel SEO, e quindi siamo riusciti al 10. Ma quando salì al 2, devo essere sincero, l'ho proposto io proprio per far allontanare Luca dal canale, perché dice che proprio non sentiva niente. No, dillo perché c'è un'altra dice, perché Luca non rispondeva più, intanto che fosse con un canale o nell'altro non rispondeva più perché non sentiva più nulla. Ah, ho capito, ma io non sto dicendo, io ti sto dicendo i passaggi che avete fatto perché mi stavo ascoltando, perché io voglio dire qui e là, non voglio polemizzare già, io non faccio polemica, io parlo perché devo parlare, capito, sono abituato a parlare. No, non faccio polemica, io non sto facendo una polemica, perché se metto a fare polemica allora è un altro discorso, capito? È così, la realtà è quella. A me dispiace di questa situazione, ma io non disturbo nessuno, la Luca non disturbo, non disturbo a te. Mi può sentire un po' sotto Roberto quando modulate voi, chiaramente mi trascina la modulazione perché siamo vicini. Ma non credo che Roberto le faccia abbattimento da non poter fare questo, perché Roberto lo sento, parla con voi. Vuol dire che mi sente ma non è così fastidiosa da poterle fare un abbattimento tale da spegnere la radio, credo. Poi, cioè, quando parla lui sul canale 10, io allora le dico a questi signori di ce ne andiamo in 10 metri a 28 metri, così non disturba nessuno, e ciccia. Però mi rimane indietro Franco, e questo mi dispiace lo stesso, capito? È tutto una questione legata al centro della radio. Il problema della vicinanza è un problema che non abbiamo mai risolto nessuno. Quindi è una cosa che purtroppo è così, cosa volete dire? Comunque, vabbè, non come già detto ieri, io non ho problemi né con te né con nessuno. Ripeto, ribadisco che mi dà fastidio che nel canale 10 si continui ogni sera a parlare sempre la stessa cosa. Eppure chiaramente il discorso è sempre casuale, no? Per le persone di riferimento che ci sono in quel momento. Vabbè, non ti preoccupare. Farò come facevo prima, anche come ho fatto prima, così i problemi sono risolti e non c'è più malumore per nessuno. Quando vuol dire state facendo quel show, io me ne vado dalle altre parti e faccio quel show dalle altre parti. Poi non cerco nessuno, chi vuole mettere appresso mette appresso e poi la colpa non è la mia. Adesso il problema è che bisogna cercare di convincere Natalino a non vendersi niente, Cla. No, ma dopo gli do un consiglio, quindi individuo sta roba con le mani nella rasura. Capito? E la facciamo crepare del tutto la 27. Perché intanto, cazzo, di queste situazioni abbiamo cercato di tirarla su e abbiamo fatto solo casino. Vendetevi tutto l'altro e resta a me. Io basta che giro solo il quartiere, guarda, non prendo proprio niente. Non mi creo questi problemi. L'antenna rimane lì perché la uso per i 10 metri. Anzi, ancora per poco, perché quest'estate monterò le direttive, quindi poco mi interessa. Però mi dispiace che non posso entrare a fare un quesito, a salutare un amico, a scambiare due chiacchiere, solo perché la vicinanza ci permette non di parlare ma di polemizzare. Tutto qui. Ma io glielo sto dicendo, vendetevi tutto, almeno le polemiche sono risolte, capito? Nessuno fa più polemiche, non ci parlate piano e diranno a peccato, di a che cosa? Ma poi se mi scrivo al tirassegna me ne vado al tirassegna a svagarmi. E mi rendo tutto, perché lo dico, lo faccio questa volta. L'ho fatto altre volte a vendermi tutto me. E poi me lo sono dovuto ricomprare, poi è un cacchio, non ne ricompro più. Adesso mi vendo tutto. E se voi da terra a me mi vendete tutto almeno, cazzo, proprio in 27 diventa un deserto attorno. Allora così tutti contenti e felici. Data lì, venga anche io al tirassegna, che ci voglio venire. No, comunque, scusate, io adesso quello che non capisco, però forse è che proprio stasera questa polemica, stavamo parlando tranquilli di pesca, ripeto, e poi parlavamo tutti, parlava Roberto, parlavi tu, Natali, parlava Gianni, parlava Mario, parlava anche quell'altro Luca che veniva più basso, non capisco proprio stasera, comunque c'è un equazio tranquillo, o mi sbaglio Roberto, non ho capito. Allora, fino a un certo momento, io l'ho detto bene, fino a un certo momento poi ci siamo spostati sul numero 2, sul canale 2, a un certo punto sentivo fischiare e a quel punto lì io non sentivo più nessuno, a parte Natalina. Sì, ma questa è la fine mia, vabbè, quando proprio stavamo quasi chiudendo e poi davvero ci siamo spostati di nuovo sul 10 perché abbiamo visto che Luca intanto non c'era. Sì, io basta, un paio di minuti, non di più, poi siamo ritornati sul 10 e è ritornato tutto a posto. Sì, ma io sto fischiando. Ma so chi era, io non so chi era, Claudio, io non sto cercando a te in particolare. Io ho detto c'era qualcuno sul 10, più forte di tutti, e annientava tutti, tranne che Natalino. No, stai sbagliando. Portante sul canale 10 non ce n'era, quello che sentivi tu era un abbattimento, perché l'ho sentito anche io. Tu devi stare attento, perché magari quella gente pensa che ci sia Portante. Quello che tu sentivi fischiare era un abbattimento tra altri canali, non era... l'ho sentito anche io quando stavo ascoltando voi qua che vi siete spostati su 10. Era un abbattimento, nei canali praticamente ho provato a girare e sentivo aumentare l'abbattimento tra il canale 1 e il canale 2, capito, in mezzo, quindi era qualcuno che fischiava o lo faceva apposta, perché noi siamo convinti che siamo soli in radio. Voi non vi immaginate quanta gente c'è che ha le radio e perché usa le radio per ascoltare o per disturbare, che forse è meglio, forse più per disturbare che per ascoltare, capite? Quindi molto probabilmente è qualcuno che stava fischiando in mezzo a noi, vabbè, o magari verso di te e verso di me, per meglio dire, era sicuramente in qualche canale alfa, perché non ero io che stava fischiando, capito? E non ce n'era portante sui cani 10, era un abbattimento di qualcuno che era vicino a noi, vabbè. Sì, sì, Claudio, ripeto, ho detto, noi eravamo sul 2 in quel momento lì, io lo sentivo fortissimo sul 2, sul 10 non lo sentivo, probabilmente, però non era, probabilmente era un canale vicino, un canale come li chiamati, canali alfa si chiamano quelli lì, era talmente forte che annientava tutti, però io non ho cercato né a te né a nessuno, gli ho detto, un segnale fortissimo, che è più forte di tutti, tranne che di Natalina. Dici un canale praticamente intermedio, tra il canale 2 e il canale 1. Capito, in mezzo, perché l'abbattimento l'ho sentito anch'io, nel momento in cui ho terminato con i miei colleghi, che ero sul 41, ho salutato loro, se Franco se n'è andato, io mi sono messo in ascolto sul canale 10, in quell'attimo che mi sono messo in ascolto, praticamente ho sentito questo, cioè nel canale 2, perché voi l'avete ancora sul 2, ho sentito questo abbattimento, e voi vi siete ascoltati sul canale 10, perché tu non sentivi più niente. Quindi vedi, le manovre io le seguo, non è che non le seguo, ma non pensare che fossi io che stavo magari facendo prove, non è ora di fare prove, io sono stato i miei amici e stavo ascoltando a voi. E poi sono entrato perché ho sentito Luca e appunto ha fatto quell'interrogativo e quindi sono entrato a fare una battuta a Luca e a Natalino, ma niente di particolare. E poi è scattata la scintilla, ma forse è scattata già da qualche giorno la scintilla. Perché tutte le sere così, capite? Poi stasera in particolare perché chiaramente qualcuno ne sta approfittando adesso, no? Dice, siccome io sono in mezzo a Claudio e a Roberto, mi metto a fischiare, a fare il gaggio così in colpa a Claudio, capite? Non è così, non è assolutamente così. Non è il mio carattere avere roba da fare alla gente che sta parlando, capite? Se non posso rompere non le rompo nessuno io le palle. No, Claudio, io ti ripeto una cosa, te l'ho già detto anche ieri, a me non me la fotte nulla di nessuno, io ci tengo molto di più all'amicizia che altre cose, non so se te ne sei accorto, per cui ci tengo all'amicizia tua e di tutti gli altri. Arrivato a un certo punto sarò costretto anche io, se vedo che la situazione si sta mettendo male, come vedo che si sta mettendo, spengo tutto e basta, finché non si mette tutto a posto. Guarda, la stessa cosa ti dico a me, poco me frega, vabbè. Come hai detto tu, io tengo più a camminare con la testa alta e con la testa bassa, ho già fatto l'errore 20 anni fa di farmi più nemici che amici in 27, quindi avevo deciso di non entrarci più, perché con Gianni ci sentivamo tutte le sere, lui saliva da Porto Torres, quindi le facevo compagnia così, poi mi ha chiamato Tino, accendi qui e là, Bilbo Basso, ma eravamo in 3 o 4. E poi la cosa si è ampliata, si è diventata più grande e questo mi ha fatto piacere. Però se fa piacere vuol dire bisticciare con le persone, a quel punto lì sarò il primo a non a spegnere la radio perché faccio altre cose. Giro il welfare, me ne vado da altre parti e parlo lo stesso, non è che non parlo. Mi dispiace che sia andata a finire come è andata a finire, tutto lì. Vabbè, comunque. Va bene così. Gianni, riprendi, ho dormitato che sì. No, sono bella la vita. Io non voglio fare storica, ma ti voglio ricordare le battaglie che abbiamo fatto per costruire questo canale 10 nel miglior modo possibile. Dico canale 10 perché abbiamo deciso di essere sul 10, poi poteva essere un altro canale. Le riunioni, tutte le cose, cioè tutto sta andando in fumo per una fesseria, proprio per una fesseria, perché basterebbe un po'. Ti dico un po' di buon senso. Dico, ti disturbo, cerco di fare del mio meglio, non vado in quel canale, vado in un altro dove ti disturbo, tutto lì, non c'è bisogno di fare polemiche e cose, nessuno sta dicendo, sta obbligando la gente a non andare nel canale, però almeno cerca di non farlo quando c'è quello, capito? Ci sono dei modi che si trova sempre un accordo, io perlomeno sono sempre per la pace, forse. Io avrei fatto così, avrei preferito non modulare io piuttosto che disturbare gli altri, poi cioè, ognuno la pensa a modo suo, capito? Comunque ricordati che questo canale qua l'abbiamo costruito noi, a me cioè, mi faceva molto piacere che si stava ampliando, che stava entrando gente, che tutte queste cose qua, adesso saranno tutti in fumo, non te ne accorto qua. Io sono d'accordo con te, ci tocca un argomento proprio perché le battaglie le abbiamo fatte assieme, io, tu, Natalino, Stefano, eccetera, eccetera. Però, credetemi, ma io non so che cosa fare, capito? Non so che cosa fare, perché io non voglio disturbare nessuno, capito? Mi dispiace per Roberto, abbiamo avvicinato talmente tale che ci possiamo ritrovare a vicenda, però cerco di fare l'impossibile. E sono sicuro che quello che stava aspettando Roberto, magari, non lo manco io, perché io stavo uscendo con Di Polo. Vogliamo fare la prova? Roberto, guarda, Gianni mi segue, io vado sul canale 41, Gianni, in bando laterale, con il 920, non con questo no, con il 920 e la direttiva polarizzazione orizzontale, e tu Roberto rimani qua, vediamo, Gianni mi segue per vedere se è vero, perché tu devi rimanere qua, e poi mi dice a vedere se mi senti, io sono convinto che quello che sta prendendo colpo è qualche altro, tu che sta facendo lo scemo, perché io è impossibile che ti possa disturbare con la polarizzazione orizzontale qua, facciamo una prova, accendo la radio. Aspetta, la metto qua, facciamo un altro, ti dico quando sono pronto già. Un attimo, ma Claudio, non c'è bisogno, perché avevamo stava parlando con Roberto, quindi non è possibile che davi fastidio a Roberto. Avevamo stava parlandoci, quindi è una prova che puoi anche evitare, perché non davi fastidio. Perlomeno, Roberto, tu non stavi seduto nel corso tranquillamente. Confermo, ho detto solo pochi minuti prima di entrare dopo Claudio, cioè ho sentito questo fischiando, un segnale fortissimo, sarà durato un paio di minuti, a quel punto ho detto andiamo su 10 e basta, fino a quel momento non c'erano problemi. Quindi adesso non ti vede niente che dobbiamo spiare insieme. Dimmi qua. Io sto parlando con Gianni sul 41, ecco, ma stavo parlando stasera, tu mi stai sentendo? No, Claudio, confermo, è stato un momento solo, un paio di minuti su due, basta. No, ma a me mi interessa, se tu mi senti, io parlo con Gianni, sono sul canale 41, guarda, io sono sul canale 41, qua. Non mi informo neanche, posso fare due questioni, guarda. Schiaccio un altro microfono, guarda come sono organizzato, sto parlando davanti a qua, ora, sto parlando anche sul 41, guarda, con la polarizzazione orizzontale. Claudio, non c'era bisogno di fare niente, non ci sono problemi. No, sono convintissimo, guarda, al 200%, guarda, al 200%, che non sono io che ti sta disturbando, è qualcuno che ne sta approfittando della situazione, capito, qualche animale nei tuoi confronti, e il resto è quello che sappiamo. Però sicuro che io so come trasmetto la polarizzazione orizzontale, io non ti posso mai disturbare, mai, capito? Mai ti posso disturbare. Padre, io ho detto, su canale 2, quando eravamo su canale 2, c'era un segnale, qualcuno fischiando, non ho fatto nome, io non l'ho cercato a te, mi hanno detto soltanto loro, il vicino, ho detto, non lo so, potrebbe essere vicino, lontano, non lo so, ho detto, era un segnale talmente forte che niente va tutto, a quel punto ho detto, andiamo sul 10, e qua non si può ascoltare. Attenzione Natalino. Ma Natalino ha già chiuso tutto, Mario. Vabbè, non c'è più nessuno. Tutti offesi sono, là. Vabbè, comunque, io male quel Paolo misuro. Mamma mia, me ne spaccio nella gara, vi credi salvato. Non è successo niente, perché stasera abbiamo fatto un passione veramente tranquillo, che forse eravamo a tanto lo facevamo, purtroppo c'è quel problema lì, ma io anche lo so, ci sono passato anch'io con la gente vicino e non ci sono soluzioni, hai capito? Non è che ci siano soluzioni, Robè, che uno può, la soluzione è o si sta insieme al canale oppure devi essere molto lontano, ma se sei vicino anche lontano lontano non ti dai fastidio, oppure magari cambiare i sistemi d'antenna, ma è un problema che l'avevo, ce l'avevo anche io quando a Sassari, vabbè. Quindi non vedo questa grande cosa, poi ci sono momenti che magari può succedere questi bailame e basta, ma uno non si deve memorizzare, non deve né vedere niente e né smettere di parlare. Sto scherzando, però diciamo da un po' di fastidio perché ho visto che si stava ripopolando, la frequenza c'era di nuovo più vita, come dicevate voi, rispetto all'inizio quando sono entrato io, ci sono delle persone nuove, ci sono delle persone che vogliono entrare, eccetera, eccetera, e dispiace per vedere tutta questa situazione. Tra l'altro stasera proprio non devo dire niente, l'altro giorno sì che c'erano i problemi, infatti io o chiudevo le RFGN oppure attaccavo l'antenna piccola e li risolvevo, però oggi, sì dal momento che si è inserito quello fischiando, andava tutto bene, quindi in quel momento lì io non riuscivo più a sentire a nessuno tranne che Natalino, ma per un paio di minuti questo, poi siamo andati su lì e ci è tutto finito. Mi sentite adesso? No, confermo Claudio, io ti ripeto, ti sei scaldato per niente, perché il problema per me stasera è stato solo quando siamo andati sul canale 2 per un paio di minuti e basta. Sentivo questo fischiare e le ho detto a loro, c'è qualcuno che sta fischiando e non vi sento più, e boh, è finito tutto il discorso, sono andati su 10 ed è finito, perché poi non si sentiva più. Io mi sono sentito toccato perché noi siamo vicini, come io sento queste cose è chiaro che, però siccome io ti ho detto già l'altro giorno che quando mi sposto faccio l'impossibile per non disturbarti, tanto è vero che io uso 920 in banda laterale che ho fatto sentire anche a Salvatore con il dipolo praticamente, perché è un dipolo appoggiato orizzontale puntato verso Anghelo e siccome è una direttiva so di arrivare benissimo e non disturbare nel modo più assoluto, perché la programmazione orizzontale è la migliore antenna che esiste al mondo, è puntata lì e lì rimane, non ci sono altri raggi di radiazione, non c'è niente da fare, ed ero più che convinto, quello che stava disturbando stasera è qualcuno che ne sta approfittando della situazione per mettere battuta per la notte a qualcuno, capito? Tutto lì, quindi, comunque, risolto il problema, per me io ho una coscienza a posto e pulita, poi gli altri facciano quello che vogliono fare, vabbè, capito? Magari ha qualcuno che è macchina, magari fermi al quadrato, perché io, perlomeno il problema l'ha sentito solo Roberto, però sì che era qualcuno in macchina mia, ok? No, ho sentito anche io il fischio. Addirittura anche tu l'hai sentito? Segnale, scusa, non ci vuole niente, no? Al quadrato ci vuole poco, mi. Era di splatter, capito? Ma comunque l'ho sentito anch'io quando voi eravate sul 2, io stavo salutando i miei amici di Alghero, c'erano le cuffie, sentivo questo ai tubo, magari sui telemi. Allora sono passato, mi ho tolto le cuffie, ho sollevato il volume del 440 e ho sentito tutto questo putiferio, capito? Poi mi siete ascoltati a 10 e a 10 abbiamo iniziato a chiacchierare dove siamo adesso. Però, hai visto Gianni con che cosa esco, quindi non, per me problemi non ce ne sono, io la coscienza ce l'ho pulita e vorrei che qualcuno prendesse gli stessi provvedimenti che prendo io, perché questo dispiace anche a me, che tutte le cose stiano ricadendo su di Luca e su di Franco per una trattata, perché arrivate a questo punto chiaramente non si potrà fare più QSO se continuano queste polemiche, tutto lì. E poi, cazzo, facciamo vendere la radio a Natalino, ma stiamo scherzando. Ma Luca e Franco sarà difficile perché sono troppo vicini, come la reso? Cioè, è una questione proprio impossibile. O vanno sul suo canale, io mi ricordo, ti ripeto, quando c'era Sassari e c'era Adriano, alla fine eravamo sul suo canale. Anche voi eravate vicini. No, ma lì sussiste il problema della banda laterale. La banda laterale è una banda micidiale, non è? È una banda passante, capito? Quindi quando ganta, non c'è niente da fare. Cioè il picco massimo di modulazione raggiunge l'armonica che arriva alle stelle, mentre la M è una pietra modulata, quindi la modulazione rimane più rilassata, eccetera, capito? Vabbè, comunque, si vedrà cosa farsi. Io ripeto, ribadisco che la mia coscienza è pulita, perché sono in grado di attenuarmi, sono in grado di uscire con antenne diverse e quindi non creare problemi al mio vicino. Ho le regolazioni anche per le bande laterali, quindi so per il radio chiuso, perciò posso andare da 0 a 100 watt, ma in banda laterale con la spinta che hanno i microfoni puoi tenere tranquillamente 5 watt di portante, quindi problemi non è. Va bene, ok, risolto il problema comunque. Da parte mia, vabbè, l'avevo già risolto avanti ieri, quindi mi dispiace che questo cretino abbia creato questo putiferio, perché sicuramente qualche ignorante che ne sta approfittando la situazione, vede che siamo vicini, cioè io ci mettiamo vicino, sa che tu sei a quadrato, sa che io sono a Carmonazzi, e si mettono a disturbare facendo credere che magari qualcuno come me o qualcuno come un altro, non voglio fare nomi, ma che ne stia approfittando, tutto lì. Vabbè, Mario, riprendi, va, fai girare. Purtroppo sono cose che succedono, ma no, già si risolvono. Non c'è bisogno né di mettere bombe né di mettere chissà che cosa. E ne difendersi tutto. E per vendere un altro vendi a me che io non ne ho apparati. No, casomai poi non deve vendere, deve regalare, perché siamo secondo cos'è, siamo in un regime proletario, Mario, bisogna regalare. A proposito di regalare, ma non cambiato se ne è. Penso di sì, non sentiva niente, capito? Ha detto che non sentiva nulla. Cioè, anche a me mi è successo, quindi posso capirlo. Prima di pensare di abbassare il macchinino, dalle le feghine, l'avevo lasciato a metà e ho detto, boh, questo non manco a metà, funziona. Senza pensare di chiuderlo del tutto, perché io volevo prendere almeno qualche tipo che muda da lontano, magari a proposito di Paoletto, quando chiama, eccetera, eccetera, per evitare di non sentirlo. E ho provato a dirlo anche a lui, ma mi ha detto che anche qualcosa con le feghe chiuso lo bombarda. Gianni, ma tu con le feghe chiuso mi ascolti lo stesso a me? E io? Ti ascolto, ho detto 7. Meno male. No, perché ho detto, come facevi con le fine chiuso? Perché aspetta, fai quello che provo io adesso. Prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Sì, sì, anch'io. Ma non ne ho bisogno. Dai, riprenderlo bene. Ho sbagliato 5 di 7. Vieni, padre, che mi senti. Riprenderlo bene. Beh, signori, io interrompo qua che domani bisogna andare a lavorare. Ciao, saluto a tutti, ciao Claudio, non ti arrabbia, ciao Salvatore, ben sentito, ciao Gianni, ciao Mario e tutti quelli che stanno ascoltando. E prendetela con filosofia, dai, ci sono cose più gravi. Ma io penso che una bella riunione si possa fare e discuterne tranquillamente, senza problemi, capito? Così si finisce di parlare nel radio, perché poi magari cosa si incavola, se ci se ne parlavo, ne parliamo in verticale con gli interessati, eccetera, eccetera. Allora parlavamo direttamente loro due. No, già. Ciao, no, vabbè, buonanotte. Claudio non si incazza, tu lo conosci molto bene, si incazza quando sente cose che non deve sentire, capito? Perché mi sento toccato come siete toccato Luca, come ti siete toccato tu, perché ribadisco ancora una volta che in questo canale, quando eravamo in 3 o 4, queste cose non succedevano. Quindi, siccome aggiungo una cosa, senza che nessuno ci picchi, però non sono stato io personalmente a telefonare alle persone e a dirle accendete i baracchini che abbiamo acceso sul canale 10, ma sono state altre, quindi queste persone si prenderanno la propria responsabilità, caro Gianni. E qui non voglio polemizzare e non voglio assolutamente che qualcuno si picchi, perché io sto esprimendo il mio parere, capite? Qualcuno ha detto ad altre persone, metti il baracchino, io qui, là, bimbumba, come Mario ce l'aveva 20 anni nel cassetto, ha messo il baracchino, sono ben felice che Mario abbia il baracchino che fa due chiacchiere con noi e non rompe le palle a nessuno, però si era creata in quel momento, tu Gianni lo sai benissimo, no? Perché ne abbiamo anche parlato in persona, una situazione di quasi di ripicca tra un canale e l'altro. E da lì è cominciato il putiferio, capito? Una parte parlava qui, una parte parlava dall'altra parte, e si veniva qui a rompere le palle, e poi si andava là, e poi qui, e poi là, e ciccio ciccio, capito? Quindi Claudio questo non l'ha fatto, a Claudio va bene che tutti entrino nel canale 10, che tutti si comprano la radio e che tutti facciano i cazzi loro. A me non mi interessa niente, perché io con i quattro miei faccio quello che mi piace e gli altri fanno quello che gli aggrada. Però io non ho mai detto a nessuno, vieni sul canale 10 o comprati il baracchino per venire a rompere le palle. No, questo però è stato fatto, ecco lì che a Sassari sta cominciando a succedere il casino. Queste cose si possono evitare, io mi sono trovato la soluzione, Luca magari forse di più vicino, non lo so com'è, ma dovrebbe essere la stessa adattata tra me e Luca, dovrebbe essere la stessa adattata più o meno. Ma non so, forse c'è un parco dove, come per dove è Luca qua, arriva più forte di tutti. Capito? Luca qua ha lo stesso segnale di Franco col baracchino, poi se Franco usa altra roba allora è più alto, però col baracchino hanno lo stesso segnale e ti dirò che le dati mattano a volte se non lo bassa a buru, capito? Perché? Perché c'è un altro nei miei confronti arriva molto molto bene. E così deve essere lì, da dove abita Luca lì in discesa, c'è cioè qualche varco dove le antenne si incrociano, perché è impossibile che si distruggano a quei livelli, cazzo, è impossibile, capito? È impossibile, perché io stasera ho sentito, stavo usando il telefono con sempre lo stesso microfono, però a questo telefono cosa va? Va a desilvate, è pure male, un desilvate distrugge uno che è a un chilometro, mi pare il tram. Quello telefono è di più di 10, sicuramente. Esce un bel forte del cavolo e poi c'è una cosa, è risaputo che le bande laterali disturbano sempre di più delle altre frequenze. Anche se è lontano, senti sempre, quando uno va in banda laterale, io me lo ricordo delle vecchie tempi quando si facevano i VX in banda laterale, che quando uno entrava a fare i VX si diceva si comprendeva nulla, ma le ti tirava tutti. Lo so, però vedi, io uso un apparecchio serio, l'antenna non è una verticale, riesco ad attenuarmi il segnale, nonostante esca anche con 100 watt, capito? Riesco ad attenuarmi il segnale e non disturbo, quindi i baracchini sono peggio di questo tipo di radio, sono molto molto peggio. Vabbè, comunque, freghiamocene, cerchiamo di far sì che questo non succeda più, perché stiamo dando solo adito alle persone che ci stanno ascoltando di crearsi veramente un concetto negativo nei nostri confronti. È veramente una vergogna, cosa che noi abbiamo sempre ribadito, che il canale 10 dovrebbe essere il fiore all'occhiello di Sassari e della 27, e invece stiamo diventando peggio del canale 5, capito? Quindi finiamo e cerchiamo di andare avanti senza crearci problemi e malumori e di passare una retta tutti assieme. E basta, poi ripeto, se qualcuno vuole venire al canale 41, se ha la possibilità di fare due chiacchiere con i miei amici, a me non mi disturba in modo più assoluto, perché a me mi hanno chiesto, ma non c'è nessuno, no, io sono qua perché l'altro questione, no, è messo un canale 10, capito? Quindi problemi non ce ne sono, possiamo anche ascoltarci tutti e parlare tutti lì, però non so se li sentite, perché io per poterli sentire, antenne non ne hanno loro, c'è un'antenna di macchina. Capito? Per potermi sentire devo usare il dipolo direttamente su di loro per poter ricevere un segnale un po' particolare, ecco perché moduliamo in banda laterale, perché la M mi arrivano talmente bassi che non, se c'è QRM non li sento, tutto lì, ma già stanno andando via, non è un problema, quindi si tornerà alla normalità, spero, poi questo dipende da chi ha quei problemi che io non ho, perché io ripeto, la coscienza ce l'ho pulita, devo parlare in mandatale, vado a parlare in mandatale, ma non creo problemi a nessuno, se poi qualcuno ha problemi li vuole creare, allora Allora già, ci dobbiamo esonerare da questo discorso e prendere un altro, perché allora ognuno si arrangia per i fatti suoi. Va bene, ma se ti fai il rovescio della medaglia, se tu dovessi avere degli sfratti da Roberto per dire che a me manda la pelle con un altro, che cosa faresti? Io se ho le bande laterali vado dove parla lui, non ci sono dubbi. Perché ti devi sentire costretto a prendere un vicino se tu vuoi fare questo da un'altra parte? Quello è il punto, capito? Già, ma tu devi condividere anche il fatto che essendo vicini, per il quieto vivere io vado dove c'è lui, è chiaro che è così, capito? È così, io vado dove c'è lui, lui magari non ci viene perché non c'è la possibilità, ma se Roberto avesse avuto la possibilità sarebbe venuto a parlare tranquillamente dove sono io, se lo disturbo. Se non lo disturbo continuo a fare il questione sul canale 10. Però se lui a me mi disturba, che io ho la possibilità di andare a trovarlo, io vado lì, parlo lì. Fino a quando lui non si sposta o fa questione a me dove sono io. Però io vado lì, cosa me ne frega? Questo si può che tu per il carattere che c'hai fare un bel lavoro. Poi vabbè, scusate che non sia così, ma papà, comunque, no, per farti capire che Luca se si lamenta ha ragione, perché io gli ho totalmente ragione, perché anche a me mi ha disturbato e i giorni che mi disturbava, e mi disturbava forte forte, mi continuava anche a male, figurati. Già, Luca ha pienamente ragione, e io ho tutta la mia solidarietà, perché ha ragione, solo che non ho la possibilità di andare lì o venire lì dove trasmetto io con Franco, con le bande laterali, e fare quel show con lui, perché se Luca avesse avuto quella possibilità, tutto il progetto, il problema non ce n'era, capito? Per 10 giorni, 5 giorni, Luca avrebbe parlato dove sono io, perché Luca parlare con me le fa piacere, è città dove ci sono io. Tranquillo e sereno, però purtroppo non ha quella possibilità, quindi si incazza perché non ha quella possibilità, capito? Non perché sta prendendo colpio, si incazza più perché non può andare lì e chiacchierare in quel canale, sicuro che è così, e più si incazza anche perché chiaramente sta prendendo colpio, quindi dice non parlo né dove è lui e né dove devo parlare io, capito? È normale. No, capa di Maria. Purtroppo è come lui ha detto, che se dà i colpi di piedi se li prende, o rimaniamo tranquilli e sereni così, o se no, chi ha piacere di andare è libero di andare, non c'è il vincolo. Ho il contratto testamentale che dobbiamo parlare tutti su 10, chi vuole andare è libero di andare, chi vuole spegnere è libero di spegnere, e ognuno è libero di fare ciò che gli pare e piace, già. Vero, non è che io quando mi vado a parlare, se ne trovo gente nel 10 ne parlo, se non ne trovo ciccia, è già successo anche qualche altra volta che o per un motivo o per l'altro il canale 10 delle gente, per quello non è morto nessuno e non è successo niente per nessuno, così che o ci arriviamo o se no non lo so, il mio so che è stato spento per 6-7 anni, una cosa così, può rimanere ancora spento, non è che non mi dà da mangiare la palata a me. Così che non me la frega nulla, chi vuole stare a ruota sta, chi non vuole stare ciccia. Io riprendo io che siamo domani, mezzanotte e mezza, cioè andiamo almeno me ne vado a letto. E già, il problema è quello che gli ho detto a Luca stasera. Stare vicino con due così devo trovare l'accordo, come dice Claudio, quindi non. Gli ho detto anch'io, non c'è nessuna soluzione, è punto e basta. E poi anzi io mi lamento che c'è poca gente, che non so come messo in macchina, che non parlo mai con nessuno, porca mia, speriamo che ne entri gente, almeno c'è modo di chiacchierare. Sì, ma se ne fuggi, se queste cose se ne fuggi da ieri. Beh, già tu lo sai benissimo, quanto a me è meglio di me, che la ruota stava ampliando anche come colleghi come me, perché a volte entrava Nino, Marco è un po' più assente, addirittura si stava organizzando anche Marcolino, quello di Alghero, per fare due chiacchiere qua su 10, ma è chiaro che la gente evade, quando sono polemiche, i discorsi a giorni sono belli, sono interessanti, a giorni sono monotoni, perché la gente mai non ha voglia di parlare, non c'è argomenti e quindi non c'è dialogo, va bene, può capitare, ma cazzo, uno è da non dialogare, chi non ha gana, non ci sono argomenti, l'altro è da farci la forza uno con l'altro, e allora è chiaro che la gente dice, ma se tu non hai detto, cosa io ho entrato a ampliare, ma è un ascolto, perché tante volte io vi ascolto e non entro, perché non so cosa dire, non ho dialogo, quindi non è un silenzio, però non è detto che tutti i giorni debba essere così, quindi secondo il mio punto di vista è trovare un accordo e continuare ad andare avanti. Io i miei metodi ce li ho per non rompere le palle a nessuno, e che qualcuno si metta nei panni degli altri e che trovi le soluzioni migliori per poter continuare ad andare avanti, capito? Perché se io mi voglio spostare a salutare un amico da un'altra parte, vado, cambio antenna e cerco di non disturbare Roberto, perché io così sto facendo. I colpi che sta prendendo Roberto sono convintissimo che non sono i miei, convintissimo, perché glielo dimostro quando vuole, capite? E invece dall'altra parte non è così, i colpi sono quelli, allora si deve trovare una soluzione per poter chiacchierare, perché altrimenti non va bene per nessuno. Vado, signore, mezzanotte e mezza, io vi saluto, scusate se ho rotto le palle anche stasera, ma io purtroppo sono uno di quei pochi rimasti, 27, che dialoga subito senza portare rancore con nessuno, quindi ormai lo sapete, perciò da parte mia non è successo niente, pur io adesso sentirò Luca, vediamo di trovare una soluzione per poter fare qualcosa e metterlo in condizioni anche lui di parlare e volere parlare, perché mi sono veramente rotto le balle. Siccome io non c'ho niente da ricriminare a nessuno, quando posso fare qualcosa lo faccio e continuerò a farla fino a quando non sarò in grado di modulare come cristiani, come tutti quanti gli altri. Quindi da parte mia c'è la massima disponibilità, come c'è sempre stata per tutti. Vi saluto, buonanotte, ci sentiamo domani, signori, se no mi canta il cucco, anzi mi sta già cantando. Sì, buonanotte, ciao. Avanti, Natalia non c'è, mi già da poco fa che l'hai lanciato, non c'è. Ciao, buonanotte, Cra, vai Mario per i saluti. Ciao Cra, buonanotte, buon tutto e buona faticata per domani, perché anche domani si deve faticare. D'accordo, io ne approfitto lo stesso, così anche io me ne vado in 144, che anche per me è giornata di combattimento domani. Signori, buonanotte a tutti, buon 144 e buona giornata per domani. Ciao. Ciao Mario, buonanotte, buon 144, io adesso faccio altro passaggio anch'io con Gianni e poi anch'io vado a dormire, vai già. Ciao Mario, buonanotte. Sì, chiudendo anch'io, dai, ciao. Ci sentiamo, buonanotte a tutti, dai. Non posso più parlare che chiacchierare. Ciao. Ciao già, ciao. Chiacchierci domani, perché già. Sì, verso l'automano Vini. No, sai cosa facciamo già? La settimana prossima dobbiamo organizzare una pizzata, bisogna organizzare, così ci troviamo e ne parliamo, dai. Cerchiamo di vedere un po', se ne avete voglia, cerchiamo un localino, andiamo a mangiarci una pizza. Per me non c'è problema. Fai la serie, ui. E può darsi che mai certe cose discusse così si risolve, ma non c'è nulla da risolvere, dai, no? C'è solamente da trovare il sistema per questi due che sono vicino e basta, e sono gli unici che sono così, e basta, non c'è nulla da non è un problema grosso, ecco. Dai, vabbè, casomai se non c'è una sera andiamo a mangiarci una pizza. Ok, buonanotte, già, ci sentiamo domani, ok? Ciao ragazzi, ciao. Che rimasto? non lo so, proviamo a fare un attimo di bianco, vediamo un po' se c'è qualcuno, viene infatti a salutarlo e se lo chiudiamo anche noi. C'è nessuno su 10? Vabbè, dai, no, saluto anche tutti dalla CDB, nonché SWF, ciao. Ciao, buonanotte, Gilano, domani. Ciao, buonanotte. Ah, ci sei ancora? Beh, aspetto la fine io sempre, anche se avevo già salutato. D'accordo, va, che domani si lavora sabato, se non è un casino. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte, ma chi lo dici? Purtroppo si lavora, non è un cane, mamma mia, però bisogna fare lo stesso. Beh, ultimo passaggio, buonanotte a tutti, anche a chi arriva a sfondo. Buonanotte, QRT definitivo per tutti. Ciao, ciao, buonanotte.